250 crostini di tre colori. Prendete due kiffels e tagliateli a rotelline grosse un centimetro che friggerete nel burro o nell'olio. Prendete degli spinaci tirati col sugo, col burro e parmigiano, tritati fini, e coprite le fette del kiffel con uno strato dei medesimi. Prendete due uova sode, sgusciatele, tagliatele a metà per traverso e mettete da parte i torli. Del bianco tagliate tanti cerchietti concentrici e poneteli sopra lo strato degli spinaci. Del torlo fatene tanti pezzetti o dadi grossetti e poneteli in mezzo ai cerchietti del bianco. Così formerete dei crostini che potranno contornare un piatto d'arrosto, i quali, avendo per base il pane fritto coperto dal verde degli spinaci, col bianco e il giallo rosso delle uova, figureranno di tre colori, ma sono più belli che buoni.